Roma Trastevere, 9 gennaio 1974. Care Eleuterio, la casa che lasciai felice per sposarti oggi mi vede infelice per averti sposato. E vede infelice anche mia sorellina perché, come dice lei, quel cretino non mi capita mai sotto le mani al momento opportuno. E mentre ti scrivo, mia sorellina è di là, che con il cannocchiale cerca di individuare la cometa. E io penso che il cannocchiale è il buco della serratura per spiare il panorama. Penso anche che sei un beote, Eleuterio. Non capisci che la tutela del paesaggio è un dovere civico, sempre tua. Roma Farioli, 10 gennaio 1974. Inenarrabile sempre mia. Se la tutela del paesaggio fosse una cosa seria, le autorità avrebbero già provveduto a demolire tua sorellina, che comunque dovunque deturpa il paesaggio. Oltretutto, tua sorella dovrebbe essere demolita anche come costruzione abusiva. Io non penso che i tuoi genitori l'abbiano costruita su progetto approvato. La tutela del paesaggio a casa mia non la voglio applicare, Eleuterio. Poi scritto, leggo che entro gennaio tutte le autocisterne devono essere revisionate. Di a tua sorella che passi alla motorizzazione. Roma Trastevere, 11 gennaio 1974. Care Eleuterio, gattoide, mia sorellina si è leggermente alterata leggendo la faccenda della demolizione che la riguarda. Poi è scesa a comprare una testa di maiale, l'ha messa sul mobiletto in ingresso, che è alto quasi come te, e passandogli vicino di corsa, con un morso ha portato via l'orecchio destro alla testa suddetta. Tempo 3 secondi e 7 decimi. Dice che facendolo a te può arrivare anche a 2 secondi e 9 decimi. Poi è andata in cucina a preparare la cena, risotto tartufato. E io penso che il tartufo è solo una patata che si mette troppo profumo. Penso anche che la tutela del paesaggio sarà lo scopo principale della mia vita, sempre tua. Roma Farioli, 12 gennaio 1974. Inesplicabile, sempre mia. Comincio a sentire la tua mancanza. Strano come il vuoto riesca a creare il vuoto. Svegliarmi la mattina e non vederti al mio fianco mi fa cominciare la giornata di malumore. Invece quando sei qui e ti guardo appena sveglia, mi faccio due risate e affronto la vita con un certo ottimismo. Torna, anche perché qui succedono cose strane. Qualcuno deve aver sostituito il canarino giallo con uno strano uccello rosso e nevrotico. Chi può essere stato? Eleuterio. Poi scritto, la portinaia ha chiarito il mistero del canarino. È sempre lo stesso, solo che il contenitore della paprika è identico a quello del mangime e io... Roma Parioli, 13 gennaio 1974. Care Eleuterio, micione, ti scrivo da casa nostra in quanto non essendo più in casa di mia sorellina non posso scriverti che da qui. È bello rientrare nella propria casa e ritrovare gli oggetti familiari. Non ho ancora ritrovato la tua scrivania, ma spero che sia sotto i giornali che ci sono sopra. La cercherò non appena avrò disfatto la valigia. E io penso che la valigia è un sandwich di cuoio imbottito di biancheria. Penso anche alla nostra ultima lite, della quale ricordo tutto. Io me ne stavo tranquillamente a leggere e tu mi hai aggredita. Chi è quel cretino che ha spostato i miei libri? Eleuterio, prima di tutto abbassa la voce quando parli con una signora. E poi i tuoi libri sono anche i miei. E li abbiamo sistemati in modo da rendere più bello il paesaggio dello studio, visto da chi entra. Un momento, chiariamo una cosa alla volta. Hai detto lì abbiamo spostati. Tu e chi? Come se non lo sapessi, Eleuterio. Io e mia sorellina. La libreria con i libri sistemati in modo da mescolare un po' i colori rende più vivace il paesaggio. Se acchiappo tua sorellina, il paesaggio glielo rendo monotono, tutta ingessata e in posizione orizzontale, non vedrà che il soffitto per un mese. L'enciclopedia medica mi finisce alla lettera C. Dove sono gli altri volumi? Dove vuoi che siano, sempre nella libreria. Ma sono 12 e devono stare tutte e 12 insieme. Non dire sciocchezze, 12 libri rossi tutti in fila fanno monotonia di colori, invece 3 di qua, 5 più su, 2 più giù fanno macchia, movimentano la libreria. Ah sì? Movimentano? E io adesso ti faccio vedere come si movimenta una casa. E il ritratto a olio del povero papà? Dove è andato a finire? Nello sgabuzzino, Eleuterio, ti assomiglia troppo. Dice mia sorella che deturpava il paesaggio della parete destra, dove invece metteremo una bella foto di mia sorellina quando era ragazza. A parte il fatto che quando era ragazza tua sorella la fotografia non era stata ancora inventata, com'è mai possibile che un distributore di benzina sia stato ragazza? Eleuterio, non incominciare con mia sorella o ti spacco in testa il busto di Napoleone che mi deturpa il panorama della cristalliera. Cerchiamo di stare calmi e ragioniamo. Nel mio studio c'erano due finestre. Una non c'è più. Non dire sciocchezze, Eleuterio. La finestra c'è sempre, solo che non si vede perché ci abbiamo messo davanti la scansia che era sulla parete di fondo. E perché? Perché quando mia sorellina viene qui e si mette in terrazza, se tu sei in studio, da quella finestra ti vede e gli deturpi il panorama. Ho capito. Facciamo una bella cosa. Tu adesso chiami il mammut. Chi? Tua sorella. Non è un mammut. Va bene, il dinosauro. Non è un dinosauro. Insomma, chiama quell'animale di tua sorella e se entro un'ora non rimettete tutto come stava, io vi faccio vedere come si deturpano due sorelle deficienti. Io non chiamo nessuno e tu modera i termini. Metti subito a posto tutto, se no ti sceneggio la parola catastrofe. Io non metto a posto proprio niente perché mia Eleuterio, posa lo spiedo del girarrosto. No, io devo tutelare il paesaggio e le oche me lo rovinano. Eleuterio, se c'è allusione, io posa quello spiedo. Ma niente affatto. Posalo, se no torno da mia sorella, aiuto. Eleuterio, sto tentando. Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio, micione. Ha telefonato mia sorellina, dice che sarebbe opportuno incentivare la programmazione sportiva, quindi abbiamo deciso che...